Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Il giorno che seguì alla morte di Antonia, tutta Madrid sembrava la scena di un dramma a tinte fosche. Un arciere che aveva assistito agli avvenimenti del sotterraneo non aveva saputo tenere la lingua a freno e aveva spiattellato in tutti i particolari le circostanze del delitto e il nome dell'assassino. I baciapile e le beghine persero letteralmente la testa. Molti si rifiutarono in principio di crederci e si precipitarono al convento per chiedere notizie. Preoccupati di mascherare la vergogna che minacciava il convento, i frati si sfiatavano ad assicurare ai devoti che soltanto il suo cattivo stato di salute impediva ad Ambrosio di mostrarsi in pubblico, ma la scappatoia fu scoperta in un batter d'occhio. Del priore non c'era traccia e la storia dell'arciere finì a poco col fargli perdere anche gli ultimi partigiani. Alla lunga non ci furono più dubbi sulla sua colpevolezza e i più accaniti picchiapetto divennero i suoi più feroci accusatori. Mentre innocentisti e colpevolisti si prendevano per i capelli in tutta Madrid, Ambrosio era in preda alle torture di una coscienza troppo a lungo schernita e in preda, come se non bastasse, alle terribili fantasie che la paura del castigo alimentava senza posa. Quando pensava alla posizione privilegiata che aveva alle sue spalle, oggetto dell'ammirazione di tutti, in pace con se stesso e col mondo, non riusciva a convincersi che quel prigioniero su cui pesavano delle accuse tanto atroci fosse proprio lui. Erano passate solo poche settimane dal momento in cui era ancora puro e senza macchia, e ora si vedeva insudiciato dai più neri delitti, oggetto dell'esecrazione generale e per di più, nelle grinfie del Santo Uffizio, che non sembrava disposto ad abbandonare la preda. Non c'era da sperare di poter abbindolare i suoi giudici, che fosse colpevole, si capiva a occhi chiusi. Se cercava di pregare, sentiva che la preghiera non gli apparteneva più e che nemmeno la misericordia divina era commisurata alla sua colpa. Per qualsiasi altro peccatore, pensava, poteva esserci speranza, ma per lui no. I suoi delitti erano inespiabili. Finalmente il giorno dell'interrogatorio arrivò. Suonavano le 9 del mattino, quando la porta della prigione fu spalancata e il carceriere gli ordinò di seguirlo. Il monaco obbedì tremando come un giunco. Lo condussero in una specie di immensa galleria le cui pareti erano tutte tappezzate di nero. Dietro una tavola erano seduti 3 uomini dall'aspetto duro e maestoso, anch'essi vestiti di nero. Uno di essi era il grande inquisitore in persona che la gravità del caso aveva indotto a occuparsi personalmente del processo. A un altro tavolo, più piccolo e poco discosto, stava il cancelliere col suo scrittoio. Fu fatto segno ad Ambrosio di avvicinarsi e di prendere posto a una estremità del tavolo. Guardandosi intorno, notò un certo numero di strumenti di ferro sparsi al suolo. Avevano una forma sconosciuta, ma non gli ci volle molto per indovinare che si trattava di strumenti di tortura. Impallidì e riuscì a stento a reggersi in piedi. Nella sala regnava un silenzio profondo, interrotto soltanto dal parlottare misterioso dei giudici. Passò così più di un'ora, durante la quale la paura di Ambrosio crebbe a ogni secondo. Dopo un intervallo di tempo di cui non poté misurare la lunghezza, ma al cui ispirare gli parve che i suoi tormenti avessero fine, una piccola porta si aprì sul lato opposto a quello da cui egli era entrato. Ruotò sui suoi cardini con uno scricchiolio sibilante e apparve un ufficiale, seguito dalla bella Matilde. L'irsuta capigliatura le ricadeva sul volto in disordine. Le guance erano livide e gli occhi scavati nelle orbite come 2 caverne. gettò ad Ambrosio un'occhiata disperata. Il monaco rispose con uno sguardo di odio e di fiele. Fu piazzata di fronte a lui e una campana suonò 3 volte. Era il segnale che annunciava l'apertura dell'udienza. Questo tipo di processi non si enuncia né l'accusa né il nome dell'accusatore. Si chiede semplicemente ai prigionieri se sono disposti a confessare. Senza una formale confessione di colpevolezza, l'Inquisizione non pronuncia mai una condanna definitiva. Di solito, prima di rimettere i prigionieri alla tortura, si lascia passare un certo tempo. Ma il processo di Ambrosio era stato affrettato a causa del grande auto da fé che doveva aver luogo fra qualche giorno e nel corso del quale gli inquisitori volevano che questo non comune prigioniero recitasse una parte importante. Pensavano in questo modo di dare un esempio strabiliante della loro vigilanza. Il monaco non era accusato soltanto di stupro e di assassinio, ma anche di delitto di stregoneria, che gli era stato imputato allo stesso titolo che a Matilde. Il falso novizio era stato arrestato per complicità nell'omicidio di Antonia, ma perquisendo la sua cella erano stati trovati dei libri e degli strumenti molto sospetti che giustificavano pienamente l'accusa di stregoneria formulata nei suoi confronti. La scoperta dello specchio istoriato che Matilde aveva lasciato per caso nella cella del monaco aveva fatto incriminare anche Ambrosio. Le strane figure che vi erano incise avevano subito attirato l'attenzione di Don Ramirez, che lo aveva consegnato al grande inquisitore. Dopo averlo esaminato a lungo, questi aveva sollevato una piccola croce che portava appesa alla cintura e l'aveva posata sullo specchio. Un fracasso simile a un rombo di tuono era istantaneamente rintronato nella stanza, mentre l'acciaio dello specchio si sbriciolava in 1000 frammenti. Decisi a fargli confessare non solo i delitti di cui era colpevole, ma anche quelli dei quali era manifestamente innocente, gli inquisitori diedero inizio all'interrogatorio. Ma per enorme che fosse la paura delle torture a cui lo avrebbero sottoposto, Ambrosio temeva ancora di più la morte che l'avrebbe precipitato in mezzo alle fiamme eterne dell'inferno e proclamò la sua innocenza col tono più risoluto. Matilde seguì il suo esempio, ma nel parlare tremava di paura. Dopo averlo invano esortato a confessare, i giudici lo misero tra le mani del carnefice. Ambrosio dovette sopportare le torture più raccapriccianti che la crudeltà umana possa escogitare. Ma la morte appare così tremenda quando ci si sente colpevoli, che trovò la forza di continuare a negare. L'intensità della tortura fu aumentata fino al momento in cui, stremato dal dolore, la perdita dei sensi lo rese un soggetto poco interessante per i suoi carnefici. Fu poi la volta di Matilde. Terrificata dallo spettacolo delle sofferenze del priore, il suo coraggio l'abbandonò completamente, si accasciò sulle ginocchia e confessò il suo commercio con gli spiriti infernali e la complicità nell'assassinio di Antonia. Ma per quel che riguardava il delitto di stregoneria, si dichiarò la sola colpevole e affermò che Ambrosio era innocente. Quest'ultima asserzione non trovò alcun credito fra i giudici. Il monaco aveva ripreso i sensi appena in tempo per assistere alla confessione della sua complice, ma era troppo prostrato perché potesse affrontare senza pericolo nuove torture. Fu riaccompagnato nella sua cella, ma fu avvertito che sarebbe stato rimesso alla tortura non appena avesse riacquistato le forze. Gli inquisitori speravano che si sarebbe mostrato meno indocile e ribelle. Annunciarono a Matilde che avrebbe subito il supplizio del rogo nel corso del prossimo auto da fé. Tutte le sue lacrime e tutte le sue preghiere furono impotenti a piegare i suoi giudici e fu trascinata a forza fuori dalla sala. Rientrato nella sua cella, Ambrosio si rese conto che le sofferenze del corpo erano più sopportabili di quelle dello spirito. Aveva le membra dilaniate, le unghie dei piedi e delle mani gli erano state strappate, le dita schiacciate e ridotte in poltiglia dalla pressione delle mole e delle viti strette a blocco. Ma tutto questo non era niente in confronto della sua angoscia e della violenza della sua paura. Comprese che nella mente dei giudici era già condannato. Il ricordo di quanto gli fossero costate le sue dichiarazioni di innocenza lo dissuase dall'esporsi inutilmente una seconda volta alla tortura. Decise di confessare tutto ciò che gli avrebbero chiesto di confessare. Ma la conseguenza di una confessione gli passò davanti agli occhi come un lampo e i suoi dubbi ricominciarono. Qualsiasi cosa facesse, la morte gli appariva certa e morire gli sembrava atroce. Aveva sentito la condanna di Matilde e la sua non sarebbe certo stata meno crudele. L'immagine dell'auto da fè lo fece trasalire. Morire tra le fiamme e incontrare una morte che lo avrebbe fatto passare da tormenti ancora sopportabili ad altri misteriosi e infiniti. Terrore di piombare nella morte, terrore senza maschera della vendetta celeste. Braccato dalla paura avrebbe voluto rivolgersi nelle tenebre dell'ateismo, negare l'immortalità dell'anima, persuadersi che i suoi occhi, una volta chiusi alla luce del mondo, non si sarebbero riaperti su alcuna realtà, che il nulla l'avrebbe ingoiato anima e corpo. Ma non poteva. La sua scienza era troppo grande, la sua intelligenza troppo smaliziata per abbandonarsi a queste illusioni, e per quanto facesse, l'esistenza di Dio gli si imponeva e lo accecava con la sua folgorante evidenza. Le verità che un tempo erano la sua consolazione, ora non servivano che ad accrescere il suo smarrimento. Una certezza irresistibile gli dava la caccia in ogni piega del pensiero e lo stanava col suo raggio mortale. Aspettò l'ora dell'interrogatorio, architettando le scappatoie più inverosimili per sfuggire al suo castigo in cielo e in terra. Quanto alla terra, per ora era prigioniero e da quel lato tutto sembrava perduto. Quanto al cielo, disperava troppo della misericordia divina. La sua ragione lo forzava ad ammettere l'esistenza di un Dio infinitamente buono, infinitamente giusto e infinitamente misericordioso. Ma la gravità dei suoi peccati non gli pareva commisurata ad alcuna misericordia. Aveva peccato con piena coscienza e la protervia che vi aveva messo lo obbligava a rinunciare a ogni speranza di perdono. «Il perdono!» smaniò in un accesso di frenesia. «Non ci può più essere perdono per me!» Si abbandonò a una rabbia furibonda. Quel che l'affliggeva di più non era il pensiero del suo delitto, ma l'avvicinarsi del castigo, e la sua angoscia si consumò in mugolii, in piagnistei inutili, in bestemmie e in imprecazioni disperate. Man mano che i raggi del sole che filtravano attraverso le sbarre della sua prigione andavano scomparendo e al loro posto subentrava la luce pallida e tremolante della lampada a olio, i suoi terrori raddoppiavano di intensità. Si vedeva in un paesaggio sulfureo, traforato da caverne infuocate, e intorno a lui stavano delle larve che sapeva essere i suoi giudici, e queste larve lo braccavano in un labirinto di torture, ognuna delle quali accresceva l'atrocità delle altre. In mezzo a questo teatro dell'orrore lo perseguitavano gli spettri di Elvira e di sua figlia, rinfacciandogli instancabilmente la loro morte. L'eccesso stesso della sua angoscia gli procurò alla fine una specie di amaro riposo. Si svegliò di soprassalto e si trovò disteso a terra. «Com'è atroce la notte per i colpevoli!» Thank you. giorno dell'interrogatorio era ormai vicino. Lo avevano costretto a ingoiare dei cordiali, il cui scopo era appunto di raddoppiare la sua resistenza fisica perché potesse essere sottoposto più a lungo alla tortura. La notte che precedette il giorno fissato per l'interrogatorio, il monaco non chiuse occhio. Un terrore smisurato aveva annientato tutte le sue facoltà. Stava come imbambolato accanto al tavolo sul quale pioveva il cupo chiarore della lampada e la disperazione aveva paralizzato in lui ogni possibilità di pensiero. «Alzate gli occhi, Ambrosio!» ordinò sopra di lui una voce che conosceva bene. Il monaco sobbalzò, poi fissò nell'aria le sue pupille dolenti. Matilde era in piedi davanti a lui. Aveva abbandonato il suo abito religioso e indossava un vestito femminile sfarzoso ed elegante. Una profusione di diamanti scintillava sulla sua gonna e i suoi capelli erano raccolti in una specie di retina intessuta di rose e di pietre preziose. Nella mano destra teneva un libriccino. «Voi qui, Matilde?» balbettò alla fine. «Come avete fatto ad entrare? Dove sono le vostre catene? Che significano queste eleganza e la gioia che schizza da ogni vostro sguardo? Siete riuscita a piegare i nostri giudici? C'è dunque una possibilità di evasione? Rispondetemi, per pietà, ditemi se devo impaurirmi o sperare». «Ambrosio», rispose Matilde con un'aria di regale dignità, «ormai io disprezzo i furori dell'Inquisizione. Sono libera e mi basterà un secondo per mettere degli interi reami tra me e queste prigioni. Ho pagato cara la mia libertà. L'ho comprata a un prezzo che farebbe tremare un'anima meno temprata della mia. Siete disposto a pagare lo stesso prezzo? Avrete il coraggio di oltrepassare senza timore le frontiere che separano l'uomo dagli angeli? Voi tacete e mi fissate con occhi pieni di sospetto e di allarme. Leggo nei vostri pensieri. Non vi sbagliate, sì, Ambrosio. Ho sacrificato tutto per la libertà e la vita. Non aspiro più al cielo. Ho rinunciato a Dio per arruolarmi sotto le insegne di Satana. L'atto è consumato e tuttavia, anche se potessi tornare indietro, non lo vorrei. Amico mio, spirare fra torture così atroci, morire in mezzo al sarcasmo e alle maledizioni, dover sopportare gli insulti della plebaglia eccitata, mille voci che vi oltraggiano e vi svergognano sotto gli sputi, le fiamme e le scudisciate, chi può pensare senza orrore a una fine così tremenda? Non vedo perché non dovrei essere contenta del mio baratto. Ho venduto una felicità lontana e malsicura contro un presente sicuro e invidiabile. Ho salvato una vita che avrei altrimenti perduta in mezzo ai tormenti e mi sono procurata il mezzo di comandare alle gioie e ai piaceri che ne faranno una delizia continua. Gli spiriti infernali mi obbediscono come se fossi la loro regina e col loro aiuto passerò i miei giorni fra il lusso più raffinato e le voluttà di ogni genere. Darò ai miei sensi piaceri senza limiti. Tutti i miei desideri saranno soddisfatti. Ogni passione la vuoterò fino al suo cuore e quando sarò stanca ordinerò ai miei servi di inventarne delle altre, più sorprendenti, di crearmi dei nuovi appetiti. Io non vedo l'ora di mettere in azione le mie facoltà sovrumane. La vicinanza della libertà mi mozza il fiato. Vi amo ancora, Ambrosio. I delitti e i pericoli che abbiamo diviso mi hanno legata a voi ancora più strettamente e voglio salvarvi dalla morte che vi aspetta. Raccogliete tutta la vostra decisione e rinunciate, in cambio di benefici immediati e sicuri, alla speranza in una salvezza difficile e forse inesistente. Scrollatevi di dosso i pregiudizi della gente comune, abbandonate quel Dio che vi ha abbandonato e innalzatevi al livello degli esseri superiori. La risposta del monaco si fece aspettare e fu proferita fra i brividi. Matilde, rispose dopo un lungo silenzio con una voce smorzata dalla paura. Che avete dato in cambio della libertà? La donna replicò fermamente, senza batter ciglio. La mia anima, Ambrosio. La vostra anima? Sventurata? Che avete fatto? Non servirà che a rimandare di qualche anno i vostri tormenti. Pensate, vi scongiuro, agli orrori che vi aspettano. Uomo pusillanime, aspettate che questa notte passi e vedrete quali saranno quelli che vi ha preparato l'Inquisizione. Avete già dimenticato le torture che avete dovuto subire? Domani vi aspettano dei supplizi ancora più raffinati. Avete mai pensato al rogo? Tra 2 giorni vi legheranno al palo per essere bruciato. Provate soltanto a immaginare che cosa diventerà il vostro corpo. Osate ancora sperare nel perdono? Accarezzate ancora l'illusione di farla franca? Ma pensate ai vostri delitti. Misurate la vostra lussuria, la vostra abiura, l'ipocrisia e l'inumanità di cui avete dato prova. Pensate al sangue innocente che grida vendetta al cospetto del trono di Dio. E sperate che vi si usi misericordia. Ambrosio, scansiamo la vendetta divina. Lasciatevi consigliare da me. Comprate col coraggio di un istante degli anni di piacere senza fine. Approfittate del presente e dimenticate un futuro dal quale non c'è più scampo. Matilde, i vostri consigli sono velenosi. Non debbo seguirli. Non rinuncerò alla salvezza dell'anima. I miei delitti sono mostruosi, ma la misericordia di Dio è più grande di essi. Non dispererò del perdono. Se questa è la vostra decisione, non ho nulla da aggiungere. Volo verso la luce e la libertà e vi abbandono alla morte e all'eterno dolore. Aspettate un secondo, Matilde. Voi comandate ai demoni infernali. Non potete forzare le porte di questa prigione? Non potete liberarmi da queste catene che mi segano le mani? Salvatemi, vi prego. Toglietemi da questo orribile luogo. La vostra richiesta è la sola che io non possa soddisfare. Mi è vietato aiutare un uomo di chiesa e un partigiano di Dio. Rinunciate a questi titoli e sarete obbedito. Non venderò la mia anima al diavolo. Puntate i piedi nella vostra testardaggine finché vi troverete davanti al palo. Allora vi pentirete del vostro errore e desidererete la libertà, ma sarà troppo tardi. Ora vi lascio, ma se prima che l'ora della vostra morte sia suonata, il buon senso vi schiarirà le idee, ecco qui il mezzo per riparare ai vostri sbagli. Vi lascio questo libro. Leggetene a rovescio le prime 4 righe della 7ª pagina. Lo spirito che avete già invocato una volta vi apparirà all'istante. Se non siete uno sciocco, ci rincontreremo, altrimenti addio per sempre. E lasciò rotolare a terra il libro che aveva in mano. Una coltre di fiamme scintillanti la avvolse, salutò Ambrosio con la mano e scomparve. Il momentaneo bagliore che le fiamme avevano proiettato nella prigione vi lasciò sfumando bruscamente un'oscurità ancora più impenetrabile. La lanterna faceva appena abbastanza luce perché il monaco potesse trascinarsi fino alla sedia. Vi si buttò sopra, incrociò le braccia e, chinato il capo sulla tavola, sprofondò in pensieri incoerenti che gli fecero passare in bocca il sapore del caos.